con Matteo Gracis, autore del libro Canapa, una storia incredibile. Matteo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti un po' di questo testo? Certo, volentieri. Io mi occupo di canapa da oltre 15 anni per lavoro, perché gestisco la rivista più importante in tema canapa in Italia, che si chiama Dolce Vita. E in questi anni quindi ho avuto modo di approfondire molto l'argomento e la cosa incredibile è che continuo a imparare cose nuove, no? Uno magari non si rende conto che la canapa non è solo i semi per gli uccellini oppure gli spinelli di Bob Marley, perché poi alla fine si generalizza o comunque sono quelle un po' le informazioni che passano alla massa. Invece in realtà c'è proprio una cultura incredibile alle spalle. E quindi ho cercato di raccontare tutto questo all'interno di questo libro in una storia un po' parallela, ovvero la mia storia personale con la cannabis e quindi tutte le persone che in questi anni ho incontrato, gli aneddoti, le curiosità, e dall'altra parte la storia proprio della canapa a partire dal 2700 avanti Cristo, ovvero dai primi utilizzi in Cina. E quindi ecco, è un libro simpatico e nello stesso tempo molto acculturante, perché si imparano un sacco di cose che non si sanno. Ecco. Quindi così, questa è una brevissima presentazione. Poi, Sì. se vuoi, posso anche raccontarti qualche curiosità proprio più precisa sul discorso cannabis, che sicuramente gli ascoltatori diranno: no, non lo sapevo, ecco, perché è un po' questo poi il cuore del libro. Passiamo direi ai vari utilizzi della canapa. Sì, guarda, appunto, l'utilizzo un po' più conosciuto è quello anche un po' più stupido, tra virgolette, io mi permetto di dire, nel senso che l'utilizzo ludico, ricreativo, è quello un po' più diffuso e contemporaneamente anche quello più conosciuto. In realtà c'è molto altro, a partire dagli utilizzi terapeutici che stanno prendendo sempre più piede, ci sono studi scientifici sempre più importanti che stanno confermando i benefici proprio dell'utilizzo della cannabis a livello medico, per poi passare agli utilizzi industriali. Per utilizzi industriali si intende la bioedilizia, la bioplastica, il biocarburante, i cosmetici, l'abbigliamento, l'alimentari. Quindi ecco, la canapa si può essere utilizzata per tutte queste cose. Viene chiamato il maiale vegetale perché come del maiale non si butta via niente. E nella storia della canapa, che io appunto racconto nel libro, riporto proprio degli esempi pratici di come l'umanità ha utilizzato la canapa in tutti i suoi anni. Vi faccio un piccolo esempio. Uno dei primissimi esemplari di jeans fu realizzato con tessuto di canapa, dei leggendari Levi's. Stiamo parlando della più o meno metà del XIX secolo. Avevano le tasche in fibra di canapa perché era l'unico materiale capace di non cedere sotto il peso delle pepite raccolte dai ricercatori d'oro, giusto per fare un esempio. E quindi ritroviamo la canapa appunto da millenni avanti Cristo fino ad oggi. Pensate poi che in Italia era diffusissima. Noi fino agli anni 30 l'Italia era il secondo produttore di canapa al mondo dietro la Russia e il primo a livello qualitativo. Poi, appunto, è arrivato il proibizionismo e ha spazzato via tutto. Sì, soprattutto ad uso tessile in Italia, vero? Assolutamente sì, ma non solo, era molto utilizzata anche per il cordame, soprattutto delle navi. Pensate che addirittura i fenici la utilizzavano sulle loro navi, e in Italia sì, veniva utilizzata a livello tessile, ma anche alimentare. E anche a livello terapeutico, in maniera di autoproduzione, perché venivano fatti degli infusi, delle tisane, che venivano consumate per, varie patologie. Poi, ecco, ripeto, è arrivato il proibizionismo e è riuscita proprio a cancellare tutta una cultura che si era creata, e che adesso comunque sta tornando fuori. Oggi stiamo assistendo a una nuova rivoluzione verde. Ecco, verso quali obiettivi? Leggo nel sottotitolo del libro Bioplastica, bioedilizia e terapia del dolore, soprattutto. Sì, ecco, questi sono alcuni degli utilizzi che stanno prendendo piede sempre di più e che rappresentano un po' il futuro. Allora, se pensate che oggi uno dei temi per fortuna di attualità è proprio l'inquinamento, no, nel mondo, tutto quello che oggi viene prodotto con la plastica potrebbe essere prodotto con la canapa ed era prodotto con la canapa. Infatti, l'industria petrolifera, il business della plastica, del petrolio, è stato uno dei più grandi nemici della canapa negli anni 30 ed è stato uno dei motivi per cui poi è stata proibita questa pianta. Io faccio anche vedere, che è composto proprio in bioplastica di canapa, prodotto da una startup siciliana, 100% biodegradabile. Se viene buttato in mare, nel giro di 48 ore diventa cibo per i pesci, giusto per fare degli esempi. Per quanto riguarda poi gli utilizzi medici, come dicevo prima, vengono sempre più portati alla luce degli studi scientifici e dei riscontri proprio importanti di terapie che vengono trattate con la cannabis. In Italia c'è un grosso problema, nel senso che la cannabis terapeutica è legale, ma poche persone lo sanno e soprattutto pochi medici. Sapete che in Italia la cannabis può essere prescritta per qualsiasi patologia, spetta solo al medico curante decidere se prescriverla o meno, e purtroppo ci sono pochissimi medici in Italia che conoscono questa sostanza in maniera approfondita e che quindi la prescrivono. In più, i malati che riescono ad avere la prescrizione fanno molta fatica ad accedere poi al farmaco perché c'è proprio mancanza, di materia prima. Viene importata dall'Olanda, ha dei costi incredibili, quindi è una situazione difficile che speriamo si sblocchi perché sarebbe ora. Il titolo recita Una storia incredibile, ecco, cos'ha di incredibile? Ad incredibile è un po' tutto quello che ti ho detto, nel senso che le persone non conoscono ancora bene questa pianta e man mano che la conoscono, e succederà appunto magari leggendo il mio libro, viene da sé dire che storia incredibile, perché il fatto che appunto i primi jeans della Levi's furono prodotti in tessuto di canapa, o addirittura che Henry Ford nel 1940 produsse un'automobile completamente fatta con la canapa, che addirittura funzionava con bioetanolo di canapa, quindi era l'auto più ecologica del mondo. O il fatto che, non lo so, potrei citarvi mille cose: le tele di Van Gogh erano dipinte su tela di canapa, le vele delle caravelle che portarono Cristoforo Colombo a scoprire l'America erano in canapa. Ecco, tutte queste cose rendono la cosa una storia incredibile. Se poi si va ad approfondire i motivi che hanno portato a vietare una pianta che nasce in natura, no? Che sembra un paradosso, ecco lì proprio andiamo nell'incredulità leggendo quei passaggi, perché sembra impossibile che sia stato fatto un complotto di quelle dimensioni che ha portato alla proibizione di una pianta quasi in tutto il mondo. Ecco, quindi è un po' questa la storia incredibile e spero che i lettori, leggendo appunto il mio libro, condividano questo punto di vista. Com'è strutturato il libro? Il libro si alterna tra la mia storia e quella della canapa, quindi sono 17 capitoli totali, nei quali i capitoli dispari sono quelli, diciamo, più personali e anche più leggeri, perché appunto racconto la mia storia da quando avevo 14 anni, dal primo contatto con la canapa fino ai giorni nostri, mentre i capitoli pari sono i capitoli, diciamo, più di saggistica, che raccontano proprio la storia della canapa, i suoi utilizzi. E quindi sono i capitoli anche un po' più impegnativi, se vogliamo metterla così. Sono alternati in maniera tale che il lettore appunto possa passare da uno all'altro senza annoiarsi, seguendo un percorso tra queste due storie che si incrociano, che sono parallele. C'è poi una prefazione e una postfazione e un glossario, quindi ecco, è stato fatto un lavoro completo proprio per dare la possibilità di leggerlo sia a chi già conosce un po' questa pianta ma vuole approfondire, e anche per coloro che non ne sanno niente e vogliono scoprirla. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per maggiori informazioni? Certo che sì. Il punto di partenza è un sito che abbiamo aperto appositamente che si chiama semplicemente www.unastoriaincredibile.it, scritto tutto attaccato. Il libro uscirà il 20 aprile. È edito dalla Cinaschi Edizioni, sarà acquistabile nelle principali librerie italiane, su tutti gli stores digitali, e sono contento anche di dire che uscirà anche l'audiolibro, quasi in contemporanea. È una cosa che volevo molto e sono contento di essere riuscito a realizzare. Quindi dal 20 aprile, Canapa una storia incredibile, lo trovate un po' ovunque, cercatelo. Un saluto e un ringraziamento all'autore Matteo Gracis. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Capilupo, grazie mille, buon ascolto, buona giornata.